e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa ripresa di settimana di Cuore e Denari. Siete pronti, stanchi, vi state trascinando come me con i gomiti e le ginocchia verso le vacanze? Nicoletta, tu, allora, weekend tranquillo? Weekend tranquillissimo, siamo qua, Milano riprendiamo. Milano è stata una temperatura meravigliosa. Io il sono caldo andata ideale. A trovare la mia mamma in campagna. È e ho fatto anche un po' di giardinaggio, benissimo. Facendo anche qualche pasticcetto. Che cosa ci proponi oggi? Vi propongo un compleanno. Compie una settimana di vita il nuovo voucher, il nuovo regime per disciplinare appunto i lavoretti stagionali, per dirla proprio con la banalizzazione estrema. Dopo l'abolizione appunto dei vecchi voucher a marzo, come sapete, è partito il nuovo regime. Ha una settimana di vita, come sta andando? Ci sono naturalmente molte criticità, se ne è occupato stamattina il Sole 24 Ore, ma stamattina parte anche la possibilità sul sito dell'INPS per fare la richiesta del nuovo bonus da 1000 euro per i nuovi nati, per cui due temi di cui parlare subito per i nostri amici che ci seguono da casa e che possono chiamare come sempre l'800 24 00 24 e seguirci anche in diretta Facebook. Ciao, ciao. Chi ci sta seguendo vede che in studio con noi c'è un uomo. C'è Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore. Buongiorno, grazie dell'invito. Benissimo, fai un sorriso per la stampa, per Facebook e per tutte le tue fans. Ti senti bene? Mi sento benissimo. Fantastico, in vostra compagnia, grazie. Perché questa è la casa del benessere, noi nella seconda parte parleremo del benessere del nostro intestino. Quando la pancia sta bene siamo a cavallo, del resto l'arrivo del caldo, la modifica della nostra dieta, delle abitudini alimentari, lo stress magari per le ultime cose da fare in previsione delle vacanze può metterlo un po' in difficoltà, e poi soprattutto i problemi si manifestano solitamente, come spesso accade in vacanze, sì. Possono mandare un po' all'aria, a gambe per aria, le nostre vacanze. Quindi 800 24 00 24 se avete a cuore la vostra pancia e il vostro intestino. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu, tanti auguri a chi ti... Parli dello yogurt che funziona come Viagra? Esattamente, questa colonna sonora è adatta anche, vedi, ad un argomento di cuore. E meno lega, male. E lega le due cose. Meno yogurt... male, perché temevo fosse attività occasionali come berlo far l'amore, mi sembrava un pochino riduttivo anche in previsione delle vacanze. L'importante è farlo. Bene. Esatto, perché distende le rughe, no? C'è anche quello di E diventa una benefico. Trasmissione un po' hard. Chiudiamo. Vi date lì. Una regolata stamattina, vi vedo già belli, belli carichi. No, vi devo... No. Assolutamente. Che devo fare? Allora, ho confuso gli argomenti, scusate. Ecco. No, per carità, fate pure. Allora, sono partiti esattamente una settimana fa. Oggi noi abbiamo pensato di istituire una nuova ricorrenza, il comple settimana, va bene? Va bene. La prima settimana di vita del libretto famiglia del contratto di prestazione occasionale, vale a dire i nuovi voucher. Le due nuove tipologie di contratto introdotte dal decreto legge 50 in sostituzione del lavoro accessorio retribuito con i voucher, che ricordiamo sono stati aboliti brutalmente lo scorso 17 marzo da un giorno all'altro, via. Due tipologie di contratto perché ci sono differenze in relazione alla figura del datore di lavoro che userà il libretto famiglia se è una persona fisica o il contratto di prestazione occasionale se si tratta di impresa o libero professionista. Ricordiamo, da lunedì scorso è operativa la piattaforma telematica dell'INPS dove ci si deve scrivere per attivare il rapporto di lavoro sia come utilizzatore che come prestatore. È filato tutto liscio questa settimana? Noi lunedì scorso avevamo promesso che avremmo fatto il tagliando al nuovo regime ed eccoci pronti con il duetto che era con noi anche una settimana fa. Mauro Meazza vi ha già salutato, caporedattore del Sole. Mauro, di nuovo ciao. Buongiorno. E Luca Caratti della Fondazione Consulenti del Lavoro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Microfoni aperti agli ascoltatori all'800 24 00 24, tutti coloro che hanno ancora dei quesiti e delle domande aperte in testa su questo nuovo regime, ma vi segnalo che ad un certo punto del programma con Mauro faremo anche un veloce ABC di un'altra operazione che parte stamattina per poi rimandare magari ad un approfondimento in settimana. Dalle 10 di questa mattina è possibile presentare sempre telematicamente dal sito dell'INPS la domanda per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, il cosiddetto bonus asilo nido, introdotto anche in questo caso dall'ultima legge di bilancio, è un contributo di 1000 euro per il pagamento delle rette relative appunto alla frequenza di nidi pubblici e privati, per cui anche per questo, se volete al volo domande all'800 24 00 24, mandiamo immediatamente ai nuovi voucher e a questa prima settimana di vita. Mauro, andiamo subito al bilancio che possiamo stilare. A 7 giorni dall'avvio dell'operazione, partita anche all'insegna di qualche protesta, la ricordiamo magari quella del mondo agricolo, in particolar modo che con i lavori stagionali in realtà è partita da un pezzo e molti imprenditori veramente non sapevano bene come pagare i lavoratori. Quindi cosa è successo in questi giorni? Ma innanzitutto dobbiamo dire che sulla base delle domande che abbiamo ricevuto al forum online, sì, che abbiamo aperto settimana scorsa, da domani peraltro una selezione di tutte le risposte sarà visibile gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore. Il sistema presenta indubbiamente un livello di complicazione non da sottovalutare, perché come abbiamo spiegato già nella puntata scorsa c'è la necessità che si registrino sia il committente sia il prestatore. Il pagamento avviene il 15 del mese successivo rispetto a quando la prestazione viene effettuata. È necessaria una conferma del committente e del prestatore, sì, sempre in via telematica. Per soprammercato, non bastasse tutta questa nuova procedura, c'è anche il fatto che, lo riportiamo anche oggi sul Sole 24 Ore, non è ancora disponibile il livello di agevolazione dato ai professionisti. Quindi se uno non ha dimestichezza con internet e dice vabbè, ma io vado dal consulente del lavoro, dal commercialista, dal CAF, ecco, in questo momento non sono in grado di aiutarlo. Ora, poiché non tutti siamo obbligati ad essere smanettoni, come si dice, certo, questo genera parecchi problemi. Abbiamo visto infatti che molti hanno proprio perplessità anche sul meccanismo di base del voucher, perché quando, come posso utilizzarlo, mi posso iscrivere o non mi posso iscrivere, certo, e poi la confusione dei due livelli. La piattaforma, quindi, mi dici, non è particolarmente intuitiva? La piattaforma è come molte piattaforme di questo tipo della pubblica amministrazione, come quelle fiscali. Se uno conosce esattamente di cosa deve occuparsi, allora probabilmente ci si muove anche a suo agio. Ma se noi pensiamo a una persona che, pur istruita, anche molto istruita, si rapporta per la prima volta con questo ambiente che alla fine è forzatamente burocratico. Immaginiamo con un cittadino che magari è in origine straniero, anche se sta in Italia da tanto tempo, si cimenta per la prima volta con un lavoro come collaboratore familiare, magari non ha l'identità digitale, perché ricordiamo che anche quello è un tassello importante per aderire appunto alla piattaforma dell'INPS, e quindi lì non fa un bel nulla. Quindi bisogna essere attrezzati già di tutta la cassetta appunto degli attrezzi per poter andare avanti nell'operazione di iscrizione alla piattaforma IMSS. Esattamente così, e infatti molti dei quesiti che abbiamo ricevuto riguardavano proprio la fase iniziale. Poi c'è l'utilizzo, cioè posso usarlo per questo, posso usarlo per quest'altro, il dubbio, il condominio può usarlo, può, esatto, non usarlo. Adesso ci arriviamo, Mauro, ma c'è anche un'altra questione molto rilevante, cioè la transizione fra il pregresso e la nuova fase, perché fra gennaio e il 17 marzo, data della radicale abolizione dei vecchi voucher, ne sono stati venduti dei vecchi ben 28 milioni, molti dei quali non sono stati ancora spesi, e voi sul Sole 24 Ore parlate di una gestione a doppio binario. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire questo, diciamo, è un'interpretazione della legge, questo vorrei chiarirlo, però se ci sono in tasca i vecchi voucher, la legge dice si possono usare fino al 31 dicembre. Allora immaginiamo che uno abbia dei vecchi voucher e usa quelli, poi continua ad aver bisogno di un collaboratore occasionale e allora attiva la nuova procedura dei nuovi voucher, il libretto famiglia ad esempio, sì, o il contratto di prestazione occasionale. Un tetto. CPO, detto anche copro. Copro, sì, è una, diciamo, un acronimo anche che abbiamo inventato scherzosamente. Anche se a Caratti piace di più ancora presto, però non esiste, ma lui piace di più. Eccolo, infatti, l'abbiamo sentito, poi ne parliamo, Caratti. Che cosa succede? Che io posso usare i vecchi voucher e avere il tetto per i vecchi voucher, e poi ho i nuovi voucher, il libretto di famiglia o la prestazione occasionale, e ho un altro tetto. Quindi ho una specie di cumulo delle due cose per uno stesso semestre, cioè questo qui, questo del secondo semestre del 2017. Ma c'è un tempo massimo entro il quale i primi voucher vanno spesi? Sì, non oltre il 31 di dicembre di quest'anno. Vabbè, quindi diciamo entro la fine dell'anno comunque la situazione vecchia sarà completamente smaltita. Sì, sì, però come hai ricordato non ce n'è in giro proprio due, ma sono parecchi. Attenzione però ai limiti di reddito, ai limiti di ore riferiti ai vecchi e ai nuovi voucher. Quindi la situazione, come sempre, lo dicevamo già l'altra volta, queste cose sono molto semplici quando vengono descritte, quando devono essere usate lo sono molto meno. E anche il pensiero di un ascoltatore che manda un WhatsApp: perché complicare così le pratiche per il mondo del lavoro in questo momento di crisi? Per rendere tutto trasparente, per tirar fuori tanto dal nero, perché ancora, Mauro, ce n'è parecchio in giro. Ma sicuramente ci sono stati degli abusi nella prima fase dei voucher, e quindi, come scrive oggi Alessandro Rotaporta sul Sole 24 Ore, il fine è nobilissimo, quello di scongiurare gli abusi, gli utilizzi scorretti, eccetera. E resta che però il sistema non è esattamente intuitivo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Allora direi di sentire subito il traffico, così poi facciamo argomentare per bene le riflessioni del nostro consulente del lavoro. Poi vedo che ci sono già delle domande, appunto, di alcuni amici che ci seguono da casa. A tra pochissimo. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati in diretta con i nuovi voucher, noi li chiamiamo così, ma si tratta del libretto famiglie del CPO, il contratto di prestazione occasionale. Luca Caratti, Fondazione Consulenti del Lavoro. Il consulente del lavoro su che aspetti problematici ha dovuto cimentarsi in questi primi 6-7 giorni di applicazione, di iscrizione alla piattaforma telematica dell'INPS? Che domande fra le imprese, i professionisti e anche eventualmente i lavoratori che si sono rivolti a voi per chiedere delucidazioni? Buongiorno di nuovo. Innanzitutto i problemi sono, come già richiamato, sostanzialmente operativi, perché ad oggi gli intermediari ancora non sono abilitati nella gestione diretta delle prestazioni occasionali. Significa che se lei venisse un'azienda che le chiedesse come si fa ad assumere nuove persone con questo regime transitorio e le chiedesse di fare a lei come consulente, come fanno magari molti commercialisti che operano, no? Intermediano l'attività delle persone, dei clienti che hanno, voi non potete farlo, non avete autorizzazione. Sì. Esatto, al momento la piattaforma non è operativa, nel senso che è operativa esclusivamente con il PIN dispositivo del soggetto che vuole utilizzare la prestazione. Quindi se lo volete seguire si deve sedere accanto a voi e fare con voi tutta la procedura, ok? Sì. Oggi ci si siede di fianco, oggi è stato anche pubblicato e reso disponibile sulla piattaforma il manuale per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, questo la settimana scorsa ancora non era operativo. E quindi effettivamente abbiamo un passo in più da un punto di vista proprio operativo, ma le domande che ci fanno è soprattutto quello di capire i tempi per l'attivazione, perché l'acronimo PRESTO, che a me piace, effettivamente è antitetico rispetto all'immediatezza dell'utilizzo. È vero, per questo che non si deve usare, lei insiste, ma in realtà... Ma lo faccio per stimolare un'immediatezza, una velocità, soprattutto della messa a disposizione di tutti gli strumenti. Perché se io oggi voglio utilizzarlo devo innanzitutto appunto avere il PIN dispositivo, e il PIN dispositivo per richiederlo richiede dei tempi un po' dilatati, sì. Prima una richiesta sulla piattaforma, poi ricevo l'altra metà via posta, eccetera. Esatto, sì. Dopodiché devo comunque, prima di utilizzare la prestazione, crearmi e caricare il mio portafoglio elettronico, perché di fatto sia il CPO che il libretto famiglia sono sostanzialmente prefinanziati, quindi devo caricare, attendere che queste somme vengano messe a disposizione e poi successivamente posso spenderle. Quindi effettivamente i tempi di versamento e la messa a disposizione, l'istituto già con la circolare 107 indicava, certo, almeno 7 giorni. Tra l'altro, da quello che ho capito, l'INPS ha messo anche a disposizione una platea nell'ambito del personale un po' più allargata per rispondere a tutte le domande che stanno facendo le persone in questo periodo, ma sicuramente il fatto di partire in piena estate forse non aiuta. Detto questo, per calarci sempre di più nella concretezza, sentirei anche qualche domanda da parte degli ascoltatori, iniziando da Francesco dalla provincia di Milano, che salutiamo. Francesco, benvenuto. Buongiorno a voi Debora e buongiorno a voi Nicoletta. Allora, ci dà del voi perché noi siamo delle signore. Certo, è un voi maiestatis. Francesco, grazie. Ci dica. Ascolta, allora il problema è questo. Io mi avvalgo saltuariamente dalla collaborazione di un pensionato che retribuivo con i voucher finché mi è stato possibile. Adesso io ho provato a riattivare questa attività con questo nuovo sistema del contratto E ovviamente iscrivere la società è stato semplice. Non riesco ad attivare il rapporto col prestatore. Dove si inceppa il meccanismo? No, si inceppa nel fatto che quando si usavano i voucher ero io che dicevo lavoro, faccio lavorare Tizio, faccio lavorare Caio, e a lui arrivava poi una telefonata di conferma, gli arrivava il tesserino delle poste e tutto quanto. Adesso, se ho ben capito, è lui che lo deve fare, ma capisce che non è così semplice. Bravissimo. Perché cosa gli dico al pensionato? Di farsi l'identità digitale, di attaccarsi al PC invece di fare queste cose, è follia. Francesco, è proprio uno dei nodi sui quali volevamo arrivare. Luca Caratti, allora torno con lei. L'utilizzatore fa la comunicazione preventiva obbligatoria sulla piattaforma IMSS e dice: voglio utilizzare per questo tipo di lavoro appunto questo lavoratore per un tot di tempo. Peraltro può anche revocarla nei 3 giorni seguenti a quello dell'attività prevista, ne parliamo dopo. Però il lavoratore ha la possibilità di confermare l'avvenuta prestazione o è un obbligo? Perché in questo caso appunto Francesco dice: non riesco ad attivare questo rapporto di lavoro perché anche l'utilizzatore deve dirlo alla piattaforma telematica che avvia questo rapporto di lavoro con me all'IMSS. Sì, in realtà il passaggio è probabilmente ancora a monte, nel senso che l'utilizzatore e il prestatore di lavoro si debbono registrare nella piattaforma telematica, cioè devono crearsi la propria anagrafica. Dopodiché, a seconda della varia tipologia, cioè se è il contratto di prestazione occasionale oppure il libretto famiglia, l'utilizzatore dovrà segnalare, e questo è proprio nel manuale, viene chiaramente specificato, dovrà segnalare con chi intenderà operare e quindi inviare la nuova dichiarazione di lavoro occasionale. Quindi individuo l'utilizzatore, individuo il prestatore attraverso il codice fiscale e a fronte di questa indicazione dovrà indicare il periodo di utilizzo dello stesso. Nel frattempo, proprio per favorire la tutela nei confronti del lavoratore, così dice l'istituto, l'IMSS, la piattaforma, invierà al prestatore di lavoro attraverso la comunicazione di posta elettronica oppure un SMS i termini della dichiarazione dell'inizio dell'attività lavorativa. A fronte di questa indicazione, il prestatore di lavoro potrà, una volta svolta la prestazione, non è un dovere perché di fatto lo potrà fare anche l'utilizzatore, è prevista l'alternatività, potrà effettivamente confermare lo svolgimento della stessa. Qui credo si possa rilevare qualche problema di criticità, perché effettivamente, data questa alternatività, utilizzatore o prestatore, l'utilizzatore potrà revocare, come giustamente detto, e il prestatore potrà confermare, è chiaro che un utilizzo non corretto, patologico, potrebbe portare alla conferma anche quando la prestazione non è stata svolta. Un'area che si presta a qualche abuso, magari anche un po', come dire, obbligato, non so, data la farraginosità del procedimento, sì. Mauro, che dici tu? Sì, somiglia un po' a certe norme fiscali in cui i corretti vivono scomodi, esatto. E gli scorretti invece hanno possibilità, sapendo utilizzare, di sguazzare, ecco, certe pieghe della procedura, invece la comodità. Certo. Restando allora, naturalmente poi ci sono delle sanzioni, magari ne parliamo più avanti, però quello che dice il dottor Caratti è correttissimo e anche la lamentela dell'ascoltatore somiglia a diverse delle domande che abbiamo ricevuto al forum. Qui c'è una creazione di identità digitali prima, quindi bisogna, come dire, registrarsi, e poi c'è l'attivazione per la singola prestazione. È chiaro che già questo passaggio può provocare un po' di imbarazzo rispetto al metodo precedente, che consisteva sostanzialmente nel ritiro di un tagliando e la cosa finiva lì. Certo, no, stavo ripensando peraltro all'ascoltatore che ci ha chiamato, che magari proprio per il fatto che ha la vita così complicata magari rinuncia alla prestazione professionale di quel pensionato a favore di qualcun altro. Ci può essere anche questa ricaduta, no? Ulteriore rispetto a queste situazioni. Allora, tra l'altro, a proposito di pensionati, nella rosa delle situazioni che analizzate questa mattina sul Sole, Mauro, c'è anche quella dei nonni vigili. Sì, perché diversi comuni utilizzavano i voucher per il nonno vigile, cioè questi pensionati, queste persone che si prestano a fare questa attività di vigilanza davanti alle scuole, in ausilio naturalmente al polizia urbana. Ma questo è interessante, perché sai che io ho sempre pensato che fosse attività di volontariato? Diciamo che può essere l'una o l'altra cosa, però se la cosa viene fatta diciamo con una certa continuità, allora l'utilizzo magari per il nonno vigile può anche prevedere il voucher. Certo, quindi è la scuola che in questo caso si incarica di pagare il nonno vigile. Sì, ma l'impiego saltuario, secondo quello che abbiamo potuto ricostruire, perché poi tutte queste situazioni sono una polverizzazione pazzesca, esatto. Certo, perché appunto essendo dei lavoretti non sono perfettamente normati, perfettamente tutti regolamentati. Quindi questa, secondo noi questa situazione non è più attuabile con i voucher. Quindi non so come vorranno fare i comuni, forse lasceranno un caffè pagato al bar al nonno vigile. Il caffè sospeso, Nicoletta. Cioè, questo non è più possibile. Anche perché con le retribuzioni non è che fossero tanto superiori, immagino. Certamente. A un paio di caffè. Luca Caratti, prima di sentire ancora un paio di domande dei nostri ascoltatori, c'è Mimma da Milano e Filippo da Torino, le volevo chiedere, l'INPS ha precisato anche proprio subito dopo l'avvio dell'operazione e dell'operatività della piattaforma telematica anche un aspetto relativo ai lavoratori in apprendistato per una criticità che avevate sollevato proprio voi della Fondazione Consulenti del Lavoro. Che problema avevate riscontrato e come vi ha risposto l'INPS? Sì, il problema riscontrato era questo, nel senso che la disposizione normativa per il contratto di prestazione di lavoro occasionale prevede che non possa essere utilizzata in tutte quelle aziende o professionisti che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 5. Quindi il punto era che cosa devo includere nella base di computo dell'organico per l'applicazione dei limiti. E l'INPS aveva indicato nella circolare 107 anche l'inclusione dei lavoratori apprendisti, in quanto effettivamente essi sono lavoratori a tempo indeterminato, questo uno dei decreti del Job Act lo ricorda. Però forse non si era accorta anche dell'indicazione contenuta nella medesima disposizione normativa, allora quando si dice che gli apprendisti, salvo espressa previsione della norma, e qui la norma è silente, non dà nessuna indicazione, non debbano essere conteggiati in nessuna di queste disposizioni normative. 20 secondi, Luca, poi devo andare in pausa. E quindi effettivamente la risposta dell'istituto è stata sì, con un messaggio successivo, anche gli apprendisti, ancorché a tempo indeterminato, non debbono essere conteggiati nell'organico di Stato. Benissimo. Allora, intanto siamo arrivati alla prima pausa, quella che ci consente di andare a sentire il giornale radio. Nel frattempo voi continuate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 per i nuovi voucher, ma parleremo anche del bonus asili che parte questa mattina. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Cuore e denari. Ci siamo di nuovo insieme per parlare dei nuovi voucher, il libretto famiglia e i copro, i contratti di prestazione occasionale, il nuovo regime che sostituisce il pregresso, quello dei vecchi voucher aboliti a metà marzo. Ma come abbiamo avuto modo appunto di testimoniare, abbiamo la prima settimana di operatività della piattaforma telematica dell'INPS e quindi le prime regole già sperimentate sulla pelle di potenziali datori di lavoro e lavoratori, ma non è un sistema particolarmente semplice. Allora, le vostre domande stanno arrivando in tante all'800 24 00 24. Adesso sentiremo appunto i nostri amici, però avevamo anche promesso ai neo papà e alle neo mamme di parlare anche della operazione che è possibile effettuare da questa mattina sempre utilizzando i canali telematici dell'INPS. Allora, Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, aiutami a fare un rapido ABC del bonus asilo nido. Ribadisco, un ABC volante, solo perché siamo sulla cronaca e parte l'operazione questa mattina. Magari prima della fine della settimana ritorneremo con un esperto, non perché tu non lo sia, ovviamente non ho voluto fare la discriminazione, ma magari qualcuno più pratico Nidologo, esatto. Un nidologo. Un nidologo, magari chiamiamo l'INPS appunto per farci raccontare. Allora, che cosa dobbiamo raccontare rispetto a questo bonus asilo nido? Innanzitutto, sì, hai fatto bene a dire che non sono un esperto, perché parte tra l'altro con tutta calma, perché è una cosa disposta dalla legge di bilancio per il 2017. Siamo arrivati con un buon semestre, diciamo, di riflessione, per essere eleganti. È una cosa che riguarda i nati nel 2016. Attenzione, perché come tutte queste misure che sono state varate di recente, hanno un tetto di utilizzo e quindi devono essere via via finanziate dallo Stato. Quindi il consiglio è: chi è in questa condizione, cioè di avere i requisiti per richiederlo, che si dia una mossa. Sì, direi con un congiuntivo esortativo, si prenotasse, perché poi finiscono i fondi. Sono 144 milioni quest'anno. Ecco, non sono tantissimi, anche se sembrano tanti ovviamente, ma poiché immaginiamo che le richieste in queste condizioni, anche magari di difficoltà, specialmente per chi ha dei bambini neonati, allora conviene prenotarsi subito. Attenzione, la procedura è telematica, quindi tutto quello che abbiamo detto per i nuovi voucher vale anche per questo. Bisogna attivarsi, avere una posizione digitale presso l'INPS, ovvero questo PIN, PIN dispositivo. Il PIN dispositivo, essere registrati. Ma anche la SPID o la Carta Nazionale dei Servizi vanno bene. Sì, la SPID è questa nuova. Un'altra giungla che abbiamo anche affrontato. Sì, infatti penso che già ormai ci stiamo familiarizzando. La SPID, come sapete, deve valere per tutti gli uffici pubblici, però non è così diffusa ancora. Ha avuto un po' di slancio per via del bonus dei 500 euro dato ai diciottenni, quindi lì ha avuto un po' più di attivazioni. Quindi prenotarsi subito per chi è nella condizione, attivarsi, lo ricordava già il dottor Caratti prima, per i nuovi voucher non è immediata l'erogazione del PIN, cioè se ci andate ora poi avete bisogno di qualche giorno per ottenere, sì, perché arriva una prima parte con l'SMS, la seconda arriva in via cartacea. Si tratta comunque, ricordiamolo, di un contributo di 1000 euro per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Lo specifico perché c'è in ballo anche un altro bonus, che è il Mamma Domani, per cui siccome ce ne sono 2-3 in circolazione, fate bene attenzione a quello che avete diritto ad ottenere. Questo qua vale solamente per i genitori di minori nati o adottati dal 1 gennaio del 2016. C'è una mamma che chiedeva se bisogna presentare il 730, sicuramente non mi ricordo i requisiti reddituali, se valgono, Mauro, no, o si tratta di un no, chi prima memoria. Arriva male alloggia. Ma meglio, sì. Ecco, esatto. E poi un'altra mamma, adesso la vado a ripescare, sì, eccola qua, Luisella dalla provincia di Torino. Marco ce l'aveva anche messa in collegamento. Luisella, benvenuta. Velocissima, buongiorno, grazie. Buongiorno, sì. Vi ringrazio molto, siete bravissime. Grazie. Niente, io appunto volevo sapere se c'era un limite di, appunto, di guadagno per poter accedere a questo voucher, perché mia nuora e mio figlio volevano appunto sapere, loro mandano il bimbo in un asilo privato per gli orari e volevano sapere se potevano accedere. Il mio nipote è nato nel 2016 e volevano sapere come per poter avere questo voucher, le clausole, perché non si sa mai bene esattamente, cambiano da un momento all'altro, e comunque bisogna presentare qualcosa di particolare, qualche documentazione particolare, volevo sapere questo. Non abbiamo appunto queste limitazioni, Luisella, l'importante è sbrigarsi, soprattutto con l'identità digitale. Luca Caratti, lei sa qualcosa del bonus che parte stamattina? Le è stato chiesto? Non viene richiesto l'ISEE, però viene richiesta l'attestazione dell'iscrizione all'asilo, quindi questo è importante. Infatti. E poi, come avete già ricordato, il PIN dispositivo per poter poi accedere, ovviamente. Però Luisella, ci faremo una puntata prima della fine della settimana. Ricordo, per chiudere questa parentesi, che l'erogazione del bonus avviene con cadenza mensile, sarà parametrato in 11 mensilità per quanto concerne la frequenza dell'asilo nido e in un'unica soluzione per il supporto domiciliare. Quindi anche questa è una specifica importante. Ritorniamo ai nostri voucher con Mimma dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamata e volevo farvi complimenti per la vostra trasmissione. Ma brava Mimma, tutte grazie, le trasmissioni Mimma. Di Radio 24. Ottimo. Che sono molto intelligenti. Ecco, niente, io ho sentito un po' Le volevo chiedere, pare che questo, il contributo per l'iscrizione al nido non sia legato a un reddito? No. Ah sì, Mima, pensavo che che fosse la sua domanda anche sul voucher. No, no, abbiamo già detto che non serve la presentazione dell'ISEE, non c'è... No, infatti l'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica, che comprende appunto non solo la valutazione della dichiarazione dei redditi, ma anche altre proprietà, disponibilità del richiedente, non è richiesto in questo caso, quindi il bonus viene erogato. Vorrei essere petulante, attenzione, perché è una cosa con dei fondi limitati. Datevi una mossa, sbrigatevi, sì. Esatto. Meglio prima che poi. Esatto, allora Caratti, ritorniamo ai voucher, libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale. Settimana scorsa non siamo riusciti ad accennare al regime sanzionatorio per gli inadempienti. Quali sono le inadempienze possibili nelle quali è possibile appunto cadere, anche se questa strada dei nuovi voucher è ricca di ostacoli, inciampi e trappole, per cui sarebbe anche molto facile purtroppo fare qualche errore che poi ti identifica come in realtà l'inadempiente rispetto al nuovo regime, ma insomma quali sono quelle possibili e poi le sanzioni per imprese e sanzioni per i lavoratori? Sì, sostanzialmente le inadempienze possono essere di due tipologie diverse, cioè da una parte il superamento dei limiti complessivi che vengono indicati, ovvero i 2.500 euro per ciascuna prestazione resa dal singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore, o comunque il superamento dei limiti di durata massima della prestazione che è pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Questo è importante sottolineare, e sottolineare anche come il rischio di superamento ci sia nel momento in cui io, utilizzando ad esempio il contratto di prestazione occasionale, immagini di parametrare i 9 euro, moltiplicarli al massimo per le 280 ore, perché i 9 euro sono il valore netto della prestazione, sì, che arriva poi al prestatore. Se io faccio questa semplice operazione matematica, mi accorgo che vado a sfondare immediatamente il limite dei 2.500 euro. Quindi in realtà noi dovremmo dire che abbiamo un limite economico di 2.500 e un limite di durata massima a oggi 277 ore. In caso di sforamento, la conseguenza è la trasformazione di quel rapporto di lavoro, che abbiamo detto essere di natura occasionale, quale rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. La seconda violazione, il secondo errore insomma, in cui potrebbe incappare un soggetto, in questo caso un professionista o un'impresa, è la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, sì, all'INPS delle prestazioni, che sappiamo che deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. In questo caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che è parametrata da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, quindi un'omissione o addirittura una tardività. Allora, beh, qualche ascoltatore che dice come al solito dove si trova l'ufficio per la complicazione delle cose semplici, la provocazione di Bruna. Mauro, stiamo andando verso la chiusura, gli ultimi messaggi da rivolgere ai nostri ascoltatori che comunque hanno tutta l'intenzione di mettersi d'impegno e nel caso debbano fare delle assunzioni secondo queste nuove regole, appunto come secondo te approcciarsi a questa nuova modalità che è un po' più complicata della precedente, è inutile che ce lo stiamo a negare, però serve anche per ovviamente cristallizzare un po' tutto quello che di opaco c'è ancora nel mondo del lavoro, soprattutto per quello che riguarda i lavori occasionali. Ma allora proviamo a dare qualche messaggio rassicurante: se avete ancora dei vecchi voucher potete usarli, li usate con la procedura precedente, quindi tutto quello che abbiamo detto adesso della parte elettronica non è in discussione. Se invece avete necessità di usare nuovi voucher, allora lì sì, serve l'iscrizione, specialmente io sto pensando alle famiglie, non solo alla parte delle imprese a cui faceva riferimento Caratti, allora lì conviene attivarsi per tempo, il periodo magari non è dei più felici. Consiglierei sempre una certa come dire serenità nell'approcciare questa cosa, perché alla fine al massimo uno avrà sbagliato uno o due voucher. No, stavo pensando se una persona deve assumere da qui alla fine della settimana un barista per farlo lavorare per il mese di agosto e ovviamente magari non ha tempo di attivare tutta l'identità digitale, ammettendo che entrambe le figure in campo non ne abbiano mai avuto bisogno e non l'abbiano mai attivata. Allora, ecco, perché ha bisogno di fare qualcosa di veloce. Il consiglio è rivolgersi a un professionista, un consulente del lavoro, un commercialista, insomma un CAF. Sappiamo che ancora purtroppo non c'è, speriamo che entro la fine di questa settimana L'INPS ha promesso entro fine luglio attiverà anche la procedura per gli intermediari. Speriamo lo facciano prima della fine di luglio, però comunque i professionisti sono a disposizione, Caratti ce lo può confermare, per aiutare proprio questo tipo di situazioni. E intanto vedo tanti messaggi e tanti ascoltatori che ci hanno chiamato, allora vi consiglio di girare tutto al Sole 24 Ore, continuate con il vostro filo diretto. Noi daremo da domani la disponibilità di tutte, di una selezione molto ampia, decine e decine di risposte che sono state fornite dai nostri esperti la scorsa settimana. Naturalmente continuiamo a fornire ulteriori chiarimenti sul Sole 24 Ore praticamente tutti i giorni, certo. Quindi non solo Radio 24 ma anche il nostro quotidiano può essere un aiuto. In caso non vi soddisfi quello che fa il Sole, provateci anche con noi, cuoredenari@radio24.it, noi giriamo tutto a Luca Caratti che sarà contento di lavorare per noi in questi giorni. Grazie, a presto. Grazie. Buona giornata. Mauro, prima di scappare, sì? Stefano da Udine ha una curiosità che lega la prima parte della trasmissione con la seconda. E gli piacerebbe sapere come sta la tua pancia in questo periodo di calcio mercato interista. Ma devo dire che noi interisti siamo senza intestino. No, diciamo abbiamo avuto molte gastriti negli ultimi anni e quindi a questo punto abbiamo raggiunto anche una certa pace dei sensi, pace della pancia. Aspettiamo fiduciosi. Vedo che i nostri dirimpettà, i nostri cugini fanno grandi acquisti, non ho capito come li stanno pagando, ma naturalmente questo ma sarà che un domani. Sarà un il problema mal di pancia loro. Arriva la bianconera della tavolata, perché è andato via, insomma, un grande Non so bene come li stanno pagando, però noi aspettiamo fiduciosi e speriamo che, come sempre, il prossimo anno sia quello buono. Abbiamo vinto molti scudetti ad agosto, è meglio vincerli a maggio. Vedi com'è tagliente. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. È intelligente, sensibile e protettivo. Non sto parlando di Mauro Meazza, perché è anche questo, ma non solo, ma anche irritabile, umorale, abitudinario, bizzoso. Mi piace descrivere così il nostro intestino, detto anche secondo cervello. Mi sono fatta l'idea che non ami le vacanze, gli spostamenti, i cambi di programmi, di abitudine, che si irriti facilmente, si stressi e che il caldo non gli piace. Insomma, diciamola tutta, l'estate non sembra essere la sua stagione d'oro, quindi uomo avvisato, pericolo evitato. E sì, pericolo, perché le bizze del nostro intestino possono rovinarci le vacanze, quindi noi giochiamo d'anticipo. Mauro Meazza diceva proprio, no? Organizzatevi, datevi una mossa, diamocela anche noi. 800 24 00 24, è tornata a trovarci un medico che ci piace molto, vero? Assolutamente. Sotto ogni profilo, la dottoressa. Una grandissima amica. Beatrice Salvioli, gastroenterologo di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno e bentornata. Anche voi mi piacete molto. Oh, molto. È una cosa di pancia, dottoressa Salvioli. È proprio Salvioli. Di pancia, è proprio istinto pure, passione. Dottoressa Salvioli, faccio un complimento anche a Mauro Meazza, che è interista. E quindi nonostante questo è il balsamo per le sue gastriti. vedi, soffre, t'ha detto. Sì, non lo so, ecco, io sono abbastanza in imbarazzo. Poi questi complimenti della dottoressa mi fanno anche un po' arrossire. Spero che non si veda sui social quella. No. Perché tu arrossiresti ancora di più se vedessi la dottoressa Beatrice Salvioli qua in studio. E allora guarda, non te la faccio vedere, ma dottoressa Salvioli, Mi è piaciuta molto la descrizione dell'intestino, perché sembra femmina. E invece sembra il carattere di una femmina. È molto femmina il nostro intestino. È molto intestino. Femmina, molto. Molto, mi piace molto che sia stato descritto come umorale, bizzarro. Però la femmina ama la vacanza, invece lui no. No, e allora lì è un po' maschio. Sì. Abitudinario, un po' pantofolaio. Esattamente. Il problema faccio subito una parentesi all'amico che appena dico che le donne, insomma, sono un pochino particolari, un po' avanti, insomma, mi dice subito: ecco, sei una femminista. Sì, un po' femminista lo sono, ma secondo me anche gli uomini poi sanno essere un po' femminili, no? Nel buono. È una domanda che fa a me? No, in generale. Allora, lei so che è d'accordo con me. Dottoressa, coinvolgiamo i nostri ascoltatori e cerchiamo di con una batteria di domande, con qualche spunto, di aiutarli a capire se stanno mettendo il loro intestino nella condizione di lavorare al meglio, in pieno benessere, oppure se inconsapevolmente gli rendono la vita difficile. È uno sgarbo questo che poi il nostro intestino si segna e al momento giusto ci fa pagare, perché poi presenta il conto nel breve e nel lungo periodo. Dottoressa Salvioli. Sì, allora il tema è questo, che uno non si accorge dell'intestino fin quando non si fa sentire lui. Questa è una cosa molto semplice, ovvia da capire, ma perché noi non gli prestiamo abbastanza ascolto. Quando è che dà dei problemi? E lì le persone si accorgono semmai di avere dei problemi un po' più seri, parlo di o intestino irritabile o i diverticoli, che tanto se ne parla, infatti sono i diverticoli proprio che si arrabbiano d'estate, apro e chiudo parentesi, semmai lo riprendiamo più tardi. Nel momento in cui lui fa sentire, semmai è un po' tardi, perché? Perché d'estate, quando cambiano anche le abitudini alimentari, e quindi incrementiamo l'uso delle fibre che vanno benissimo, ma se non ci idratiamo abbastanza, quindi se non forniamo abbastanza acqua al nostro intestino, possono fare l'effetto opposto, quindi possono creare più gonfiore, paradossalmente più stitichezze. Io faccio sempre l'esempio delle capre, cosa mangiano? E le capre mangiano erba e quindi da lì il loro prodotto secco. Quindi se noi non accompagniamo, questo è un esempio banale ma che io vado sempre ripetendo, abbastanza idratazione, e ci si disidrata d'estate, uno non se ne rende conto, soprattutto gli anziani e i bambini piccoli. Quindi molta acqua, le fibre vanno bene, ma anche lì dobbiamo capire se l'intestino parte sano o meno. Dottoressa Salvioli, però noi pretendiamo molto dal nostro intestino. Pretendiamo una regolarità secondo dei nostri criteri, secondo delle nostre, dei nostri punti di vista, che a volte non sono i suoi. Allora cerchiamo un po' di fare chiarezza, perché ci sono persone che credono di avere dei problemi con l'intestino, di avere un intestino pigro e che in realtà non hanno nessun problema, e ci sono persone invece che si sono in qualche modo adattate alle bizze del loro intestino considerandola normale, e in realtà invece questo comportamento è segno di qualche cosa che va indagato e naturalmente affrontato. Esatto, di solito si dice che le persone adulte, quindi il nostro riferimento d'età sono sempre i 50 anni, che abbiano una familiarità per problemi seri all'intestino e che all'improvviso cambiano le abitudini, cioè da normale diventano improvvisamente stitici, sì, oppure in senso opposto, quindi con dissenteria, e lì bisogna rivolgersi subito al medico curante, perché questo può, può essere una spia. Ci può accendere questa spia e farci capire che probabilmente bisogna indagare di più, per non dire poi se noi vediamo del sangue mentre andiamo di corpo, questo assolutamente deve essere indagato. 800 24 00 24, un numero verde per parlare di benessere del vostro intestino anche in previsione delle vacanze. Un'ascoltatrice mi dà lo spunto mandandomi un WhatsApp di ricordarvi che sul nostro sito troverete un'intervista con Marika Falcone, ricercatrice della divisione di immunologia tra piante e malattie infettive dell'ospedale San Raffaele, con cui abbiamo parlato di un nuovo studio condotto appunto dalla dottoressa Falcone sul ruolo del microbiota intestinale nella sclerosi multipla. Allora, se siete interessati, andate a leggervi e ad ascoltare questa intervista. Dottoressa Salvioli, con lei parleremo proprio del microbiota intestinale, un po' sulla bocca di tutti, è un po' l'ultima scoperta di questi anni, perché ormai tutte le ricerche e anche i clinici sottolineano quanto sia importante la salute di questo, posso chiamarlo organo, dottoressa? Certo. Che ha tutti gli effetti sulla nostra salute, ma anche sul nostro umore, cioè guida proprio, possiamo dire, il nostro benessere a 360 gradi. Esattamente, poi pensi che le fibre sono il maggior nutrimento per il microbiota intestinale. Ed è per questo che non è che si dice semplicemente cambiamo alimentazione, aumentiamo le fibre nella dieta perché ci fa bene. Ma fa bene, nelle ultime ricerche è stato proprio dimostrato che il microbiota si nutre delle fibre e queste sono importantissime quindi per tutti i processi anche di difesa immunitaria. Infatti è interessantissima questa ricerca di cui accennava prima della dottoressa. Allora, quindi se volete sapere quante e quali fibre, quanta acqua, soprattutto i segnali che vi possono avvisare che qualche cosa non sta funzionando, non lo state mettendo nella condizione ottimale per proteggere la vostra salute e il vostro benessere, noi siamo qua all'800 24 0024. Abbiamo anche un ascoltatore che, se Deborah mi permette, coinvolgerei prima dei mercati. Buongiorno, Johnny, sì. Da Prato. Sì, buongiorno. Buongiorno. Johnny? No, niente, sì, ci sono qua. Sì, perché sennò poi andiamo ai mercati e poi è finita. No, sono qua. No, niente, io volevo un attimo dare un contributo, perché ultimamente da un mesetto circa ho scoperto un latte di kefir, che ignorantemente pensavo fosse un animale, mi immaginavo un caprone o tanto di barba lunga. Invece poi però era bella com'è. Era una bella immagine, infatti vedevo latte di kefir anche esposto nei supermercati, non mi sono mai interessato alla cosa. Poi nel leggere l'etichetta ho scoperto invece che è un latte fermentato che viene utilizzato, deriva molto storicamente dai popoli mongoli. Certo. Ora queste sono cose che ho letto poi su internet nell'approfondire l'argomento. Grazie, così ci fa un bignamino. E qui niente, ecco, utilizzandolo, questo ha un sapore un po' acidulo inizialmente, quindi è un gusto che va un pochino, come dire, conosciuto. Però una volta presa l'abitudine ha una densità tipo lo yogurt, sì. E ho scoperto che contiene ben 30 fermenti lattici diversi e buoni, diciamo, per l'organismo e per l'intestino. Lei è contento per questa scelta? Sicuramente ne sa una in più. Il kefir, tutte le volte che parliamo di intestino, torna e ritorna anche in questa trasmissione. Grazie a Johnny, ne parliamo con la dottoressa Salvioli, che sicuramente so già che dirà a Johnny che sta facendo una cosa giusta, ma ce ne suggerirà altre. Parleremo anche della relazione che c'è tra pelle e intestino, attenzione, anche tra intestino e salute dei nostri capelli, quindi ci allarghiamo. 800 24 00 24, adesso andiamo a sentire i mercati con Deborah, che hanno dei... Oggi sì, con un po' di malumore, diciamo, con un po' di mal di pancia ce l'hanno. Intestinali. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. Nessuno riesce a pensare seriamente se la sua mente è concentrata sulla toilette. Tratto dal libro Il secondo cervello di Michael Gerson, esperto di anatomia e biologia cellulare della Columbia University. È proprio vero, eh? Che ne dite voi? 800 24 00 24, quante persone sono condizionate dalle abitudini del loro intestino? La dottoressa Salvioli, che è in linea con noi, ne sa qualcosa. Dottoressa Salvioli. La cosa è che molte volte noi siamo ostaggi proprio del nostro intestino, infatti spesso dico alle pazienti, perché lei sa benissimo che sono più le femmine che hanno questo problema, e dico: non cercate di combattere le follie del vostro intestino, lo dovete coccolare e assecondare, perché alla fine vince lui. E per questo che è un grosso problema, perché uno cerca di fargli fare delle cose che lui non vuole e alla fine chi vince? La pancia. Lui. Vince la pancia. Vince la pancia, si modifica anche un po' la forma della nostra pancia, sentiamo disagio, ma si modifica anche il nostro umore, perché tra i due cervelli, l'abbiamo detto tante volte, vero Deborah? Pazzesco, incredibile. C'è una relazione molto stretta. 800 24 0024. La dottoressa Salvioli ha ben sottolineato quali sono i cambiamenti delle abitudini intestinali che vanno riferite al medico. Ce ne sono altri invece su cui possiamo intervenire con buon senso e con dolcezza. La prima cosa, ha ricordato, ricordiamoci di bere, dottoressa Salvioli. Sì, bere, soprattutto, allora, regola numero uno, quando si ha sete già vuol dire che abbiamo perso troppi liquidi. Quindi bisognerebbe avere un'idratazione costante, generalmente è un bicchiere ogni ora, un bicchiere sto parlando sui 100-120 cc ogni ora, per cui questo consente una buona idratazione durante la giornata. Sempre ricordarsi che i bambini e gli anziani si disidratano più velocemente perché hanno meno lo stimolo della sete, proprio in loro, però loro vanno incontro più, più difficoltà dopo quando ci si disidrata. Quindi bere. Un'altra cosa, quando si va in vacanza, che quindi spesso no, si cambiano... mi scusi, avevo ancora una cosa prima delle vacanze, dove andiamo soprattutto, così chiedo. Ho già la testa in vacanze per quello che io voglio. Fortunella, anche Deborah tra poco, eh? Siamo in allora partenza. Prima di andare in vacanza, così faccio una comunicazione a chi solitamente ha un intestino regolare come un orologio, ma quando va in vacanza si rende conto che invece l'intestino va in vacanza pure lui. Ecco, quindi attenzione, noi vi diremo come evitare quei giorni in cui ci sentiamo la pancia gonfia, non andiamo in bagno, diamo la colpa al fatto che non abbiamo più casa nostra, perché noi siamo un po' affezionati al nostro bagno, al nostro, perché lui è un abitudinario, ma lì, allora, acqua. Poi il nostro amico ha sottolineato l'importanza del kefir, lui si trova bene, è andato a vedere, è un latte fermentato che ha una storia antica, lo usavano i popoli nomadi, lo usiamo anche noi, è ricco di tante volte. Ecco, a chi lo consiglia, dottoressa Salvioli? Perché non è buonissimo, ha questo sapore un po' acidino di yogurt, ad alcuni piace, ad alcuni no, ma Johnny ha detto io mi sono abituato perché ho visto che mi fa bene. Lei lo consiglia? Che vantaggi ha rispetto allo yogurt? Allora, innanzitutto ha un patrimonio di probiotici, quindi proprio di batteri che uno yogurt normale non ha. Punto numero uno. Secondo, interviene anche sul sistema immunitario, quindi alla lunga porta dei benefici del sistema immunitario. Terzo, per chi soffre di stitichezza, di solito le persone tendenzialmente stitiche hanno in estate, lo possono diventare di più oppure si possono regolarizzare perché si tranquillizzano proprio psicologicamente. Questo è un ottimo rimedio perché ti regolarizza, noi non abbiamo bisogno in questi casi specifici di cui ho fatto l'esempio di lassativi importanti, irritanti che dopo possono portare invece a uno scombussolamento della flora batterica. Noi abbiamo bisogno semplicemente di essere regolati. Il kefir è chiaro che in vacanza semmai non è facile reperirlo, meno che uno non vada in Italia, in zone insomma dove ci sono i supermercati forniti, però ha la capacità proprio di regolarizzare, di mantenere questa regolarità, che poi anche se, Nicoletta, bisogna dire, anche se non è quotidiana, non ecco, è un problema. Lì volevo arrivare, quando dicevo ci sono delle persone che pretendono che l'intestino abbia un ritmo che decidono a priori, ci sono intestini che possono anche metterci 3 giorni, non succede niente, per cui se io vado o 3 volte al giorno o 3 volte alla settimana, per noi medici, secondo i criteri internazionali, è normale. È chiaro che poi dopo uno si fissa perché dice, appunto perché il secondo cervello pensa e manda i segnali, se non mi svuoto tutti i giorni vuol dire che sto male, non è assolutamente vero. O che mi viene la pancia gonfia, perché molti legano la regolarità intestinale alla pancia piatta, non c'è un nesso così stretto? No, io ho visto delle persone che ahimè avevano la sfortuna di andare anche una volta ogni 20 giorni con pance piattissime, quindi il gonfiore di pancia spesso e quasi sempre dipende da altre cose, che non è la stitichezza. Allora, ve l'avevo anticipato, volevamo anche allargare la nostra chiacchierata e parlare di pelle. Il cervello e la pelle sono collegate da una rete fittissima di neurorecettori connessione a doppia via che regolano proprio la risposta immunologica infiammatoria e anche il normale turnover di tutte le cellule della cute. Allo stesso modo, la cute ha una connessione importantissima con ogni altro organo del corpo, in particolare con il nostro secondo cervello, e che è l'intestino di cui stiamo parlando. E ne parliamo con un grande esperto, il dottor Fabio Rinaldi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che è un dermatologo a Milano e presidente anche della Fondazione Internazionale di Ricerca Tricologica. Allora, dottor Rinaldi, non a caso, quando mangiamo qualcosa che non piace al nostro intestino, la pelle reagisce immediatamente. Quei brufolini che avvertiamo, ad esempio, sulla fronte, faccio un esempio, ma lei sicuramente potrà farne tanti altri. La pelle che in qualche modo ci segnala che qualcosa lì non va. Dottor Rinaldi, quali sono i segnali sospetti? È verissimo, quando l'intestino ha dei problemi, quando l'intestino ha dei problemi la pelle reagisce quasi subito. In effetti ci sono condizioni anche di furuncolini, come li ha chiamati, ma di acne vero e proprio, che possiamo curare in tutti i modi, ma finché non regolarizziamo una situazione intestinale, più o meno come si diceva prima, non riusciremo mai a guarire. Ma l'intestino è talmente importante, il secondo cervello, che se appena appena ha dei problemi di assorbimento e quindi per esempio assorbe male certe cose molto importanti, il ferro lo sanno tutti, ma la vitamina D, ci sono condizioni dell'intestino di malattie più o meno serie dove per esempio l'assorbimento è basso, comincia a soffrirne tutto il corpo e tutta la pelle. Allora pensiamo addirittura che ci sono malattie che servono a fare diagnosi di una celiachia per esempio, perché la pelle subito indica con dei segni ben precisi. Ce li dice, no? Poi non è che ci sostituiamo al medico, no. Ma intanto per dare un nome, un significato a delle così manifestazioni cutanee. Sì, allora, nelle forme più gravi e più importanti si formano come delle vescicolette, si formano degli eritemi molto forti e quindi queste sono quelle condizioni molto croniche che tra l'altro diventano sempre più importanti, che vengono riconosciute e si va dal medico. Però per stare sul banale in un certo senso, quindi non su una patologia così grave, la dermatite seborroica, l'acne oppure anche solo la psoriasi, quindi la pelle che diventa rossa, che secca, che dà prurito, molto spesso sono legati a situazioni intestinali. Una delle più importanti, soprattutto a livello dermatologico, per cui si nota l'associazione, per esempio, è l'intolleranza al lattosio, quindi tutta una serie di problemi intestinali che si ripercuotono sulla pelle. In certe forme ancora più avanzate, laddove possono esserci dei problemi che si chiamano autoimmuni, quindi l'intestino serve da sorgente di anticorpi che vanno verso una parte del nostro organismo, addirittura ci possono essere in certi casi, non sempre ovviamente, malattie come la vitiligine, come l'alopecia areata, come certe forme organizzate da questo. Dottor Rinaldi, la fermo qua perché c'è Elena da Reggio Emilia, ma ci sono anche le informazioni sul traffico. Ritorniamo subito dopo insieme con la dottoressa Salvioli, con il dottor Rinaldi, per rispondere a Elena, ma anche per dirvi che anche la salute dei capelli è fortemente legata alla salute dell'intestino. E poi regole per intestini in vacanza, perché dalla vacanza possano prendere solo il meglio. A tra poco. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Cuore e denari. Dalla pelle al cuore. O meglio, dall'intestino alla pelle, ma va bene così. Dottoressa Salvioli, in linea con noi, gastroenterologa di Humanitas, ricercatrice all'Università di Bologna, e parliamo di pelle con il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano e presidente della Fondazione Internazionale di Ricerca Tricologica. Ci siete tutte e due, vero? Sì. E c'è anche Elena. Dottoressa Salvioli, c'è? Sì, certo. Ah, magnifico. Non sono andata in vacanza ancora. Ma adesso tra poco consigli per portare l'intestino in vacanza. Elena da Reggio Emilia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dello spazio. Io ho una bimba di 10 anni che da 2 anni soffre di vitiligine. Sì. E anche delle zone della dei capelli con del grosso ciocco con i capelli bianchi. Ovviamente ci curiamo con le creme, ma non risolviamo da poco a niente. Io chiedevo che cosa posso fare da un punto di vista di alimentazione, visto il discorso dell'intestino. Noi siamo già vegetariani, mangiamo molte fibre, quindi molta roba integrale. Quindi lei dice la dottoressa Salvioli come gastroenterologa è tranquilla perché mangiate qualche, qualche dolce, qualche zucchero. Avendo una bimba di 10 anni, certo, ogni tanto scappa. Allora sentiamo il dottor Rinaldi e la dottoressa Salvioli. Dottor Rinaldi, io credo che non sia solo l'alimentazione ad avere un effetto terapeutico, ci siano anche altre cure, ma per la vitiligine, ma lei è il dermatologo e io mi taccio. Sì, no, l'alimentazione in questi casi può contribuire a fare in modo che tutto lo stato dell'organismo stia bene. Ogni tanto si è visto che nella vitiligine, che è una malattia autoimmune molto particolare, possono esserci carenze di vitamina D, ma non tanto carenza in quanto ne mangio poca, ma proprio per l'assorbimento, e questo può avere un'influenza. La vitiligine purtroppo ha un'origine molto complicata. Credo che l'alimentazione in questo senso possa fare poco per controllare la vitiligine, al limite ci sono cure veramente più complesse, però è chiaro che più che non saprei ci sono stabilire. Ci sono delle novità comunque nel trattamento di questa malattia, che ricordiamo si presenta con delle chiazze più o meno estese sulla pelle di colore molto chiaro. Dottor Rinaldi, non so se sono riuscita a spiegare bene, ma assolutamente, queste chiazze bianche più chiare che tendono a rimanere singole oppure a diventare un po' più ampie. Sì, ci sono novità importanti, e una di queste novità più importanti che vale la pena utilizzare e sapere che c'è può essere la terapia cellulare, cioè ultimamente con un micro espianto di una fettina sottilissima di epidermide, meno di 0,3 mm, si possono ottenere i melanociti e le cellule staminali che possono stimolarli e iniettarli, per esempio là dove c'è la macchia bianca, e spesso c'è un buon risultato. Quindi sì, ci sono nuove terapie, la bambina della signora è molto piccola, per cui bisognerebbe aspettare, però insomma qualche novità c'è. Dottor Rinaldi, la saluto chiedendole di dirci se c'è una relazione tra i capelli, la salute dei nostri capelli e l'intestino, proprio un flash, che poi passiamo alla dottoressa Salvioli. Tantissima correlazione, un po' per quell'assorbimento che dicevamo, un po' perché ci sono forme legate sempre agli anticorpi, quindi per esempio problemi di allergia oppure di intolleranze che provocano alopecia areata in alcuni casi, abbiamo pubblicato un lavoro su questo, quindi assolutamente sì, l'intestino e i capelli hanno una correlazione importantissima. Grazie dottor Rinaldi per essere stato con noi, buone grazie vacanze a voi. Anche a lei. Dottoressa Salvioli, prima che lei parta per le vacanze, ci dica invece che cosa dobbiamo fare e che cosa portarci in vacanza eventualmente per così aiutare il nostro intestino a darsi una regolata. Bene, allora ci sono due casi. Uno sono gli intestini pigri, quindi fibre, idratazione, attività fisica. Quando lei dice fibre, che cosa esattamente intende? Allora, le fibre, lei tenga presente che il quantitativo consigliato di fibre, di grammi, è di circa 25 grammi al giorno. Non è inteso come peso, ma come quantità di fibre. Le faccio un esempio: la crusca contiene 46 grammi di fibre in 100 grammi. Sì. Quindi la crusca è per eccellenza quello che contiene maggior quantitativo di fibre. Quindi io consiglio sempre di fare una buona colazione a base di fibre, tutto accompagnato da molti liquidi. Molta acqua, liquidi, frutta e verdura. E l'attività fisica è importantissimo. Poi ci sono gli altri intestini, che sono i cosiddetti intestini irritabili o colitici, che devono stare attenti agli sbalzi di temperatura, quindi aria condizionata, devono stare attenti alla maledizione di Montezuma, quindi quando vanno all'estero, soprattutto hanno fatto delle ricerche, hanno visto che chi viaggia in sacco a pelo, chi va in crociera, è più suscettibile a tutte quelle dissenterie che si hanno per intossicazioni alimentari. Quindi attentissimi al ghiaccio. Sì, abbiamo andate a sentirvi anche la puntata che abbiamo fatto proprio sul ghiaccio. Ghiaccio, attenzione alle creme, quindi tutti i latti derivati e tutte quei cibi che quindi non riescono ad essere conservati bene. Quindi sempre predilige le bottiglie sigillate, cibi cotti confezionati. Questo quindi per chi ha il problema di andare all'estero, che ha paura di prendersi qualcosa. Occhio a quello che mettete nel piatto, ma anche nel bicchiere, e attenzione al ghiaccio. Torniamo alle persone che andando in vacanza vedono che i primi giorni non riescono ad andare in bagno, ci sono degli integratori. Non bisogna farsi prendere dal tanico, perché sennò vanno alla prima farmacia e prendono le tisane a base di senna, su cui io non ho niente da ridire, ma che possono creare dei mal di pancia e degli effetti proprio indesiderati. Allora dico sempre: partite già da casa assumendo qualche fibra tutti i giorni, in modo tale che quando si arriva in vacanza già l'intestino è predisposto bene, nel senso che bisogna partire pian pianino da casa qualche giorno prima assumendo queste fibre solubili che si comprano in farmacia, sciogliendole in abbondante acqua ogni giorno, in modo tale che l'intestino già lavora meglio. Ma io non ho capito, queste fibre che abbiamo visto che si comprano, si acquistano in farmacia, anche ai supermercati, sono poi diventano una cosa un po' bavosetta, vero? Bravissima, ecco. Perché è una mucillagine. Una mucillagine, ecco, non mi veniva la parola. Si beve al mattino, si beve alla sera, si mangia solo la mucillagine, beve anche l'acqua. Che si fa con questa specie di alien? Allora, con questa mucillagine si può bere alla sera in un abbondante bicchiere d'acqua, si può prendere prima dei pasti, per esempio per chi vuole dimagrire, inducendo un senso di sazietà e anche riducendo l'assorbimento degli zuccheri, quindi è ottimo nei diabetici, si assume un'ora prima dei pasti e quindi ha un doppio effetto, ti regolarizza l'intestino e ti fa mangiare di meno. Quindi questo mica male. Non è male. Poi ci sono, quindi in realtà lo puoi prendere, dipende che effetto uno vuole. Il risultato è sempre la regolarità intestinale, che è quello che noi vogliamo ottenere. Una regolarità che, lo sottolineiamo ancora una volta, varia da persona a persona. E quindi non concentrarsi e fissarsi sul fatto di andare tutti i giorni. Questo è sbagliato, perché sennò ci si rovina la vacanza. E non dimentichiamoci l'attività fisica, perché il movimento fisico è stato dimostrato che aumenta il movimento intestinale. Dottoressa Salvioli, stiamo facendo un po' anche la nostra valigia, quindi nella trousse in cui mettiamo qualche medicinale per maledizione di Montezuma, diarree varie del viaggiatore, che cosa mettiamo in valigia, dei disinfettanti intestinali, che cosa ci portiamo da casa in 30 secondi? Sì, io farei disinfettanti intestinali, antibiotici e probiotici, che non servono tanto nella prevenzione, perché prenderseli prima non vuol dire che ti protegge dalla maledizione di Montezuma. Quindi direi di stare attentissime a quello che dicevamo prima, quindi all'acqua, al cibo, perché deve essere sempre cotto. Ma nel caso arrivasse Montezuma, ci lanciasse la maledizione, disinfettanti intestinali e probiotici, fermenti lattici, gli antidiarroici solo se si fa un viaggio in aereo, perché è meglio far lasciare andare le cose. Se prendo l'antidiarroico rischio che l'infezione rimanga più a lungo nel corpo. Dottoressa Salvioli, buone vacanze anche a lei. Il nostro intestino già è rallegrato. Esatto, buonissima giornata a voi che avete sentito A Cuore Denari, e che domani tornerete a sentirci. E che domani torna. Buona giornata a tutti.